TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Si attende l'ufficializzazione della nomina di Consalvo ai vertici del porto, Cisint, che sosteneva un altro nome, questione ben risolta dal presidente Fedriga. 150 migranti trasferiti questa mattina da Trieste, dove dormivano la Diaccio, in Porto Vecchio, verso strutture del Veneto e del Piemonte. Esportazioni di mobili verso gli Stati Uniti in calo del 20% nell'ultimo trimestre. Il comparto si orienta verso nuovi mercati, incertezza legata al nuovo annuncio di Trump su ulteriori dazi. Aumenta il numero di giovani seguiti dai centri di igiene mentale. Intanto riapre sulle 24 ore il centro di salute mentale di Via Gambini a Trieste dopo una lunga ristrutturazione. Il nuovo rettore dell'Università di Udine assume ufficialmente l'incarico e presenta la squadra dei docenti che lo affiancheranno nella direzione dell'Ateneo per i prossimi 3 anni. Valorizzare l'immigrazione di ritorno, incontro a Udine con la startup che, sostenuta da Confindustria, aiuta i figli di friulani emigrati in Argentina a trovare lavoro in questa regione. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. In apertura dunque la soluzione che si sta profilando per il porto di Trieste senza un presidente dalle dimissioni nell'estate del 2024 di Zeno D'Agostino. Al posto di un quarto commissario sarebbe vicina la nomina di un nuovo presidente sul quale sarebbe stato trovato un accordo tra regione e ministero. Si tratta dell'attuale amministratore delegato dell'aeroporto di Ronchi, Consalvo. Ci riferisce qui in studio Daniele Lettig. Al momento la nota ufficiale del Ministero con la nomina non è ancora arrivata, ma sembra ormai non esserci più nessun dubbio sul fatto che il prossimo presidente dell'autorità portuale del mare Adriatico orientale, ovvero dei porti di Trieste e Monfalcone, sarà Marco Consalvo, attuale amministratore delegato dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari. L'accordo politico è arrivato nella giornata di martedì, all'esito di un confronto tutto interno alla Lega. Da un lato l'eurodeputata Cisint e il ministro Salvini, che sostenevano il nome dell'avvocato marittimista Massimo Campailla, a favore del quale si erano espressi anche diversi operatori portuali. Dall'altro, il viceministro dei trasporti Rixi e il presidente della regione. Fedriga, nei giorni scorsi, aveva sondato anche il presidente del Trieste Airport, Antonio Marano, che però aveva opposto un diniego, suggerendo il nome di Consalvo. Amministratore delegato dell'aeroporto dal 2015 e prima ancora manager dell'aeroporto di Napoli, Consalvo sembra dunque aver messo d'accordo tutti. Il profilo che serviva, dicono fonti dello staff di Fedriga, era quello di una persona di comprovata esperienza, e quello di Consalvo sicuramente lo è. Cisint, dal canto suo, afferma che dopo le dimissioni del commissario Gurrieri credo che la questione sia stata ben risolta dal presidente Fedriga. In attesa della comunicazione formale del ministero, che poi metterà in moto l'iter formale che prevede le audizioni di Consalvo dalle commissioni trasporti di Camera e Senato, il mandato del commissario straordinario del porto di Trieste, Donato Liguori, scaduto il 30 settembre, verrà prorogato. Consalvo, da noi contattato, per ora preferisce non rilasciare commenti. Grazie a Daniele Lettige. È terminato poco fa il trasferimento di decine di migranti che stazionavano la notte sotto le volte dell'ingresso monumentale del Porto Vecchio. Le operazioni si sono svolte con il controllo di numerosi uomini delle forze dell'ordine. Sul posto anche personale della Caritas e le varie realtà che si occupano di assistenza ai migranti. Tra loro il Consorzio Italiano di Solidarietà. Sentiamo il presidente Gianfranco Schiavone. Erano circa 150 richiedenti asilo, di cui poco meno di 100 non erano neppure riusciti ancora ad accedere agli uffici della Questura per fare la domanda, ma non certo perché erano appena arrivati, ma perché passano settimane per riuscire ad accedere, e gli altri invece avevano già avuto la formalizzazione ed erano in attesa del trasferimento. Corrisponde ai dati che avevamo fornito alla Questura e alla Prefettura quando sostenevamo, inascoltati, che c'erano almeno circa 150 persone abbandonate in strada. C'erano anche famiglie, bambini, e da dove vengono? Vengono da vari paesi del mondo, chiaramente prevalentemente dall'Afghanistan, dal Pakistan, dal Bangladesh e da altre località. Sì, c'erano circa una quarantina di persone in famiglia, diciamo, con nuclei familiari. Adesso quindi non resta più nessuno in strada? No, assolutamente non è vero, neppure tutti sono stati trasferiti, già una trentina di persone rimangono in strada e da domani altri. Il problema è che bisogna capire che bisogna organizzare un sistema di trasferimenti che sia sistematico, che sia settimanale e adeguato. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Le esportazioni di mobili negli Stati Uniti da questa regione sono crollate del 20% nel secondo trimestre dell'anno e il valore è sceso da 102 a 82 milioni di euro. Un mercato che crea incertezza ma da presidiare per sfruttarne i possibili cambi di rotta nel 2026. Gli Stati Uniti nel secondo trimestre 2025 segnano un calo del 20% delle esportazioni per il settore del mobile del Friuli Venezia Giulia rispetto all'anno precedente, 82 milioni e mezzo di euro contro i 102 del 2024. Primo mercato di riferimento per le aziende regionali, non rappresenta più una garanzia di stabilità secondo il direttore del cluster Arredo FVG Carlo Piemonte. Calo del 7% nel semestre, dato ancora più pesante se paragonato a quello nazionale che non arriva al meno 3%. Diversamente, altri sbocchi danno ossigeno al comparto. La Germania passa dai 97 milioni del primo semestre 2024 ai 100 milioni del primo semestre di quest'anno. La crescita robusta è quella del Regno Unito, dai 155 ai 176 milioni del primo semestre 2025, così come il Canada, da oltre 20 milioni ai 28.600. Sale l'export anche verso Polonia e Russia, che mostra una crescita continua, ma a creare altra incertezza il nuovo annuncio del presidente degli Stati Uniti. Altri dazi dal 14 ottobre, supplementi del 25% sui mobili imbottiti che saliranno al 30% il 1 gennaio. Per i mobili da cucina e da bagno, aumento fino al 50% il 1 gennaio. Alcune economie, come Regno Unito e Unione Europea, però sono state risparmiate anche in base agli accordi già presi. Per questo, secondo Jacopo Galli, vicepresidente del cluster Legno Arredo Casa FVG, bisogna presidiare il mercato per essere presenti in caso di un nuovo riposizionamento rispetto a Cina e Vietnam dei clienti americani e continuare ad avere l'aiuto della regione in politiche di supporto all'estero, anche in ottica del rischio che a loro volta proprio paesi come Cina e Vietnam possano abbandonare il mercato americano e invadere quello di riferimento per l'Italia. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cresce il disagio giovanile e nei centri di salute mentale di Trieste arrivano sempre più under 30. Mentre il bisogno di assistenza aumenta, a Trieste riapre la notte il centro di Via Gambini, chiuso dall'epoca della pandemia. 3 nuovi posti letto, potenzialmente si arriverà a 4, rinnovata la grande area per attività immense, poi una bella mansarda per attività di colloquio. Il centro di salute mentale di Via Gambini riapre sulle 24 ore, terminata la ristrutturazione della struttura che dal 2018 lavorava sulle 12 ore per permettere appunto i lavori edili. Da questa notte quindi riprende l'accoglienza notturna delle persone che potranno usufruire dei posti letto. A Trieste sono 4 i centri di salute mentale, Via Gambini era l'unico che non aveva più il servizio notturno. Siamo con Simona Landucci, psichiatra di Asugi. Perché è così importante avere il servizio notturno e finora come avete fatto? È importante per mantenere la continuità terapeutica e finora abbiamo accolto le persone nella notte in un altro centro e di giorno nel centro di salute mentale di Gambini. Nell'altro centro, per esempio Domio, lì chiaramente c'erano anche gli altri pazienti di quel centro. Esatto, e comportando quindi rischio di acutizzare le problematiche delle persone. Normalmente quante notti risiede un paziente nei CSM? Normalmente 10-15 giorni, non di più, proprio perché il ricovero può avere una ripercussione non terapeutica per la persona, nel senso che l'obiettivo è quello di ridurre l'acuzie e cercare di supportare la persona per la ripresa della sua quotidianità. Cosa notate dalla pandemia in poi? Più giovani e con che problematiche? Allora, sicuramente abbiamo notato un'affluenza maggiore di giovani con problematiche di disturbi d'ansia, depressivi e anche di tipo familiare. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il punto sul meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, c'è nuvolosità variabile in montagna, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 16 gradi, il vento soffia a 57 km orari da est a nord-est, dunque Bora con raffiche a 60 km orari, Udine e Gorizia 16 gradi e mezzo, Pordenone 16. Tolmezzo 14, Forni di Sopra 12, Tarvisio 10, Piancavallo e Sappada 9, Monte Zoncolan 2, Monte Lussari 0, Grado 16, Lignano 17. E queste sono le previsioni per oggi. In montagna cielo da variabile a poco nuvoloso, con la possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano sulle prealpi carniche. Sul resto della regione cielo sereno o poco nuvoloso, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata da sostenuta a forte a Trieste. I carabinieri di Pordenone invitano per l'ennesima volta la popolazione a fare attenzione alle truffe. Due i tentativi ieri pomeriggio a Montereale Valcellina, altri due proprio questa mattina nel capoluogo della destra Tagliamento. In tutti i casi è stata utilizzata la scusa del finto carabiniere. Gli anziani contattati hanno intuito la truffa e hanno chiuso il telefono, spiegano i carabinieri, ma queste bande di malviventi stanno continuando a provarci. Cinque automobilisti denunciati in stato d'ebbrezza, più un altro che portava con sé una modica quantità di marijuana. È il risultato dell'attività condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Trieste nel corso del weekend, nell'ambito di alcuni servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle aree delle città più sensibili. I conducenti segnalati, sottoposti a test etilometrici, hanno mostrato un tasso alcolemico superiore alla norma. L'uomo con la marijuana, durante il controllo, si è invece rifiutato di sottoporsi al test per accertare l'uso di sostanze stupefacenti. Il professor Angelo Montanari ha assunto questa mattina ufficialmente la carica di rettore dell'Università di Udine e ha presentato la squadra di docenti che lo affiancherà nella governance dell'Ateneo. Studiare a Udine con insegnamento riconosciuto anche a Padova, fare un corso a Trieste e poi un altro a Trento o Venezia. Più che un sogno, uno dei progetti più ambiziosi del nuovo rettore dell'Ateneo Friulano, l'informatico Angelo Montanari. A me piace molto questa idea di un campus diffuso, cioè l'idea che i nostri studenti dei nostri 9 Atenei possano selezionare degli insegnamenti in un altro Ateneo coerenti col loro piano di studi e possano inserirlo senza problemi. A questo punto diventa un'offerta estremamente forte anche rispetto a università telematiche e cose di questo tipo che sono effettivamente molto aggressive. L'ecosistema degli Atenei del Triveneto si è già creato con il PNRR. Allargare l'Erasmus italiano non solo a due università ma a più istituzioni, per Montanari farebbe esplodere il numero di studenti e corsi e farebbe fare un salto in avanti nelle classifiche di ricerca nazionali e internazionali. Il motto che guiderà il suo mandato fino al 2031 e attraverserà il 50° compleanno dell'Ateneo è guardare insieme al futuro senza paure e nostalgie ma con salde radici. Dobbiamo guardare avanti, specie in un momento storico come questo, e lo dobbiamo fare insieme. Ho insistito molto sull'insieme perché io non credo all'uomo solo al comando, io credo alla collaborazione di tutti, al coinvolgimento. La didattica di una volta non funziona più, ha affermato. Si punterà su modelli ibridi, tra lezioni frontali, laboratori, attività di gruppo, uso del digitale e integrazione dell'intelligenza artificiale. Altre priorità, impulso alla formazione continua, orientamento in ingresso e in itinere, sempre più personalizzato, transizione generazionale e piano di reclutamento e formazione del personale. 6 le deleghe di area, 29 di settore per la sua squadra, 16 di loro in continuità. La componente femminile passa dal 16 al 35%. Tra le novità, le nuove deleghe all'intelligenza artificiale, alla pace, alla semplificazione dei processi e all'umanizzazione delle cure. Udine, Lillo Montaltemonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tornare in Italia per riscoprire le proprie origini e magari trovare anche lavoro è il tema al centro dell'incontro Argentina-Friuli, un ponte di opportunità che si terrà stasera a Udine nella sede di Confindustria a partire dalle 18. L'iniziativa che punta a valorizzare l'immigrazione di ritorno proporrà, oltre ai saluti istituzionali, anche la testimonianza di 3 cittadini argentini, un centinaio invece saranno presenti in sala, che racconteranno la loro esperienza aiutati dalla startup Back to Italy sostenuta da Confindustria. Noi abbiamo sentito il fondatore della startup Gerardo Sine e gli abbiamo chiesto quante sono le persone che fanno questa scelta. Quest'anno abbiamo gestito fino ad ora 120 persone più o meno che effettivamente sono rientrate, ma abbiamo più di 5.000 application che sono state fatte da fine dell'anno scorso. Qual è il loro obiettivo principale? Molti italiani oriundi all'estero sentono forte il desiderio di tornare perché vogliono migliorare la propria qualità di vita. Non è solo una scelta affettiva, ma cercano opportunità concrete e la possibilità di crescere professionalmente in un contesto che li accolga davvero. Il problema è che domanda e offerta non si incontrano perché manca un sistema capace di supportarli nel rientro e da qui nasce Back to Italy. Siamo una startup innovativa che unisce attrazione, relocation e retention, connettendo italiani oriundi all'estero con le opportunità lavorative e abitative presenti in Italia. Come se la cavano con la lingua di solito? È un ostacolo per gli italo-discendenti, perché effettivamente, sebbene lo spagnolo e l'italiano abbiano delle somiglianze, non è la stessa lingua. Noi proponiamo corsi di formazione prima dell'arrivo, e però una volta in Italia seguono percorsi di formazione affinché questo livello possa essere livellato alla media, e soprattutto è fondamentale poi per un'integrazione reale e duratura nel tessuto socio-economico. Come si trovano in Italia? Sono contenti o restano delusi da quello che incontrano? Abbiamo avuto molti successi fuori proprio dai centri come Udine, eccetera, ma anche ad Ampezzo, per dire, dove una famiglia arrivati l'anno scorso, quest'anno hanno comprato casa, ma anche un matrimonio quest'anno ha avuto il primo figlio a Sauris, e quindi sono segni che stiamo andando verso la direzione corretta. L'inverno demografico è ormai da anni una realtà in Friuli Venezia Giulia, culle vuote, popolazione che invecchia, immigrazione numericamente insufficiente, col risultato che il territorio sta iniziando a spopolarsi ed economia e servizi dovranno adeguarsi di conseguenza. 48,6 anni d'età media, circa 2 anni in più che nel resto d'Italia, un'aspettativa di vita alta, 82 anni per gli uomini, 86 per le donne, e una popolazione in calo, 1.194.000 abitanti, 27.500 in meno negli ultimi 10 anni. È la fotografia del calo demografico che colpisce la nostra regione, in linea con la tendenza del resto d'Italia. Quali le prospettive per i prossimi anni? Risponde Giovanni Carrosio, demografo dell'Università di Trieste. Se le linee di tendenza rimangono queste, non ci sono delle oscillazioni imprevedibili, possiamo immaginarci che la nostra regione al 2050-2055 avrà 100.000-150.000 persone in meno. Non necessariamente sarà una popolazione più vecchia, però avremo una regione molto più contenuta in termini numerici. E significa una contrazione progressiva dei nostri sistemi organizzativi e sociali, che significa meno bambini, e quindi meno bambini che vanno a scuola, significa meno giovani, pensiamo anche alle attività sportive, meno giovani che faranno attività sportive, significa meno consumi, più difficoltà a trovare persone per il mercato del lavoro, significa anche meno ricchezza, più dipendenza dalla finanza pubblica per pagare le pensioni, difficoltà a pagare le pensioni. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, una notizia di basket. L'allenatore dell'APU Udine, Adriano Vertemati, entra a far parte dello staff del nuovo commissario tecnico della Nazionale di Basket, Luca Banchi, che per 2 anni è stato anche alla guida di Trieste. La presentazione di Banchi è attesa questo venerdì per l'esordio. Si dovrà aspettare giovedì 27 novembre contro l'Islanda nella prima gara di qualificazione ai Mondiali 2027. Ad accompagnare Vertemati ci saranno nello staff tecnico anche Marco Ramondino e Jacopo Squarcina. E ora, prima di chiudere, un comunicato del sindacato dei giornalisti RAI, Usigrai. Da un anno la RAI è senza presidente. Questo perché i partiti non hanno trovato un accordo su un nome che per legge deve avere i 2/3 dei voti in commissione di vigilanza. Per questo motivo la maggioranza di governo blocca il lavoro della commissione facendo mancare ad ogni convocazione il numero legale. È così venuta meno l'attività istituzionale di controllo, indirizzo e vigilanza sulla RAI, bloccate le audizioni di vertici aziendali, direzioni editoriali e sindacati. Nessun confronto sull'andamento dell'azienda, nonostante il preoccupante calo degli ascolti. Il capo dello Stato ha definito questo stallo politico sconfortante, ribadendo che la libertà vive del funzionamento delle istituzioni, non della paralisi. A pagare il prezzo di questa gestione politica siamo noi cittadini. Usigrai dice basta, la vigilanza torni in aula e dia una presidenza alla RAI. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni, in regia per la parte tecnica Viola Romanese. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.